In apertura, un po' prima dell'inizio della fiaccolata silenziosa promossa dal professor Lederman, che è stato oggetto di quello sfregio con la Stella di Davide accanto alla sua abitazione, nelle 10 biblioteche di quartiere, che non sto qui a riepilogare, insomma sono le 10 biblioteche del Comune di Bologna disposte sui territori, cosiddette biblioteche di quartiere, ci sarà una mezz'ora in cui sospenderemo le attività ordinarie, quindi il prestito e quant'altro, e ci sarà la lettura di brevi pagine, 15-20 minuti, dai testi che ciascuna biblioteca ha individuato, cioè ogni biblioteca ha dotato in certo qual modo un autore: Primo Levi, Anna Frank, Mary Berg, Shlomo Venezia, ne dico solo alcuni, sono una decina, proprio come simbolo. Sarà fatta questa lettura come preludio alla marcia, dopodiché manterremo viva queste iniziative, questo non solo tributo alla memoria, ma questa azione precisa, nelle settimane che ci separano da domani al 21 di aprile, giorno della liberazione di Bologna, mantenendo all'interno di ciascuna biblioteca la lettura integrale del libro fatto con appuntamenti settimanali che saranno ovviamente ancora da definire nel dettaglio di quanto durano, eccetera, eccetera. E quindi ricordiamo che è in preparazione, in realtà, poi, come ha anticipato prima, un grande evento per la data della liberazione, dell'anniversario della liberazione della città. Esatto, come ha ricordato lei, tutto questo serve come preludio da una parte, ma anche come filo conduttore che ci conduca al 21 di aprile, perché vorremmo, anzi organizzeremo, un grande momento sul territorio di Bologna per quella giornata insieme all'AMPI, quindi Istituzione Biblioteche sul territorio, AMPI, Istituto Cervi e Biblioteca Emilio Sereni. L'evento ancora da definire nella sua dimensione, ma non ve lo posso anticipare per due motivi: uno, perché non siamo ancora pronti nei dettagli, e poi perché occorre, progettandoli insieme, avere anche una definizione prima con i partner, ma ci sarà.